piacerebbe dirti che non ho pensato a te. E che non riesco a svegliarmi e sapere che oramai non ci sei. Poi questo fottuto letto che non mi sembra fatto per due. Avevi detto che ero l'unico ed io ci avevo quasi creduto. Ti penso sempre, ma io disinnamorarmi e non è rimasto niente, solo una scheggia di due. Yeah, yeah. Pensi sia stato uno sbaglio casa tua, non ho trovato il coraggio di dirti quello che ho fatto, ma almeno non ti ho detto una bugia. Una bugia. A cosa serve il tuo odio se la colpa è solo tua? Ti penso sempre, voglio disinnamorarmi. Cosa sei?